Allora, se siete tutti, se siamo tutti d'accordo, ricominciamo. Sono le 6:30 già? Sono le 7. Sono le 7. 7:05. 7:05. Quindi avevamo pensato di riaprire questa seconda... Cosa? Abbiamo il tempo, ma... Allora, di riaprire questa seconda sessione con... anche visto anche che qualcuno si è aggiunto e magari non ha seguito... Scusate. Visto che qualcuno si è anche aggiunto e forse potrebbe essere utile a prescindere, cerco brevemente in 5 minuti di evidenziare i fili rossi e le varie proposte che sono uscite fino adesso, così che poi facciamo un altro giro di interventi senza forse affaticarci troppo e chiudiamo, non so, 3-4 e poi ci sono gli spettacoli, interventi teatrali in corso. Così poi ci facciamo la parte... ludica. Ludica, ma che ci fa sempre molto pensare. Allora, così se faccio il punto della situazione adesso c'è anche modo per gli altri di correggere. Mi sembra che dai vari interventi sia emersa innanzitutto una cornice generale di come impostare nuove lotte abbastanza condivisa, nel senso che innanzitutto si è sottolineata la necessità di immaginare forme di lotta, di protesta, di sabotaggio diverse, nuove, perché quelle tradizionali, addirittura arrivate al livello di espressione che hanno avuto in Francia, poi non sono risultate efficaci, quindi evidentemente dobbiamo immaginare delle forme nuove. Queste forme nuove, abbiamo anche detto, che non possono essere legalitarie, tutto quello che si svolge all'interno della legalità non ha una capacità di incidere concretamente e di creare veramente un problema, non negoziali quindi, perché tanto lo spazio di mediazione è chiuso innanzitutto dal potere da tanto tempo, infatti si è sostituito il patto sociale basato sullo stato sociale, i diritti, con il patto basato invece sulla sicurezza. E l'altra cosa condivisa è stata anche il fatto, cioè una difficile, diciamo, l'evidenziazione di alcune difficoltà nell'impostare delle lotte. C'è una frammentarietà anche all'interno dei movimenti antagonisti o comunque delle lotte sociali, e quindi più interventi hanno ribadito la necessità ogni volta di intervenire mantenendo una visione generale, che il periodo pandemico, diciamo, ha offerto anche l'occasione di mettere a sistema, cioè c'è più chiaro, ci sono più chiare le linee di tendenza. Cercare di portare queste linee, la chiarezza su queste linee di tendenza in ogni lotta, invece che frammentarci in interventi anche certe volte identitari o comunque settoriali, quindi frammentati nella logica del nemico che fomenta queste frammentazioni. L'altro problema è che effettivamente siamo molto, tutti quanti molto dipendenti dai servizi che ci offre il capitale, quindi diciamo non è banale cercare forme di sottrazione e sabotaggio. E anche l'intensificarsi della repressione, per cui anche a pensarle queste forme di sabotaggio bisogna comunque anche essere onesti e dirsi che si va incontro a una repressione molto alta. Mi sembra poi che siano emersi anche dei terreni possibili di lotta con degli obiettivi praticabili, sicuramente la guerra, assunta adesso come problematica principale per tutti anche i dispositivi che mette in campo. In questo senso, da una parte si è rimarcata la... matrice internazionale, il respiro internazionale che questa lotta dovrebbe assumere, però anche sono state evidenziate tutti gli obiettivi praticabili di una lotta contro la guerra, quelli che ci abbiamo più vicini a noi, quindi come stanno facendo i compagni nei porti da tempo, che bloccano le navi, che movimentano le armi. Ci sono anche delle industrie di armi nei vari territori dove uno opera, come anche per esempio la campagna di reclutamento della NATO che si fa all'università tutti gli anni e che dovrebbe almeno diciamo vedere un po' di opposizione. L'altro terreno è stato il caro vita, non soltanto inteso in questo senso anche strettamente collegato alla guerra, come ha detto il compagno di Lucca, la guerra alla NATO comincia al supermercato, e anche con un'attenzione però a tutti i dispositivi di orientamento del consumo, quindi non soltanto il fatto che i prezzi salgono, ma anche che ti piano piano, sempre da molto tempo, quindi ormai effettivamente ti orientano sul cosa mangiare, come mangiare, quando mangiare, come ti dicono anche cosa puoi fare, dove vuoi andare, come ti vuoi vestire. Sul problema comunque del caro vita si sono emerso però anche il coinvolgimento di luoghi di aggregazione di risorse, di diciamo non redistribuzione, come le poste, la cassa depositi e prestiti, quindi potrebbe avere un senso anche tirare fuori questi obiettivi e praticarli. L'altra cosa molto interessante è quella, il, diciamo, tutti i dispositivi ergonomici che si stanno diffondendo nelle città, cioè tutti quei sistemi di regolamentazione dei flussi interni alle città e di controllo di chiara impronta classista, come quello che avviene a Venezia, come quello che sta avvenendo a Roma, ma sono sicura che in ogni città questi nuovi dispositivi si possa, cioè questa proprio manipolazione dello spazio, cosa? Le smart cities, esatto, progetti di rigenerazione urbana, eccetera, eccetera, quindi che sono fatti non solo di telecamere, ma insomma di varchi a tutti gli effetti. Questo mi sembra un terreno di lotta molto interessante, anche perché è diffuso in ogni città e ognuno può articolare la sua, il suo intervento. E poi infine ovviamente c'è anche la lotta contro la repressione, non soltanto per i processi che sono già in atto, ma anche perché in effetti se ci poniamo nell'ottica di voler moltiplicare forme di lotte illegali e fuori dalla cornice del consentito, dovremmo anche porci il problema poi di sostenere queste lotte e anche di inventarci delle forme, insomma, cioè una lotta contro la repressione che non è soltanto di sostegno a chi già è incappato, ma con un po' di lungimiranza anche a chi ci potrebbe incappare in questa cosa. D'altra parte si faceva le casse, cioè si facevano queste cose, addirittura negli anni 70 si occupavano i palazzi in vista di dare alloggio ai compagni che sarebbero usciti dal carcere e non avrebbero trovato dove vivere, quindi ci si è sempre posto il problema, riponiamocelo. Io volevo aggiungere una cosa, nel senso non ho sentito più perché se ho fatto questo elenco quale fosse la finalità dell'elenco, però secondo me in questo momento un'altra battaglia che in qualche modo toccherebbe fare è rispetto all'identità digitale. Cioè io penso che proprio la privazione della presenza fisica e la sostituzione con l'identità digitale sta privando, cioè non solo di diritti, proprio di esistenza. Qui fra un po' ci spengono e se vogliono ci riaccendono, nel senso se non vogliono non ci riaccendono più. Cioè ormai per avere qualunque documento bisogna comunque passare tramite lo SPID e questa cosa sta andando coinvolgendo vari altri livelli, tra cui anche che a livello digitale si sta parlando anche di un green pass permanente, tra cui quindi insomma per me questo fatto della digitalizzazione secondo me... Ah scusa, forse non c'ero, non ho sentito questa prima parte, ecco scusa, quindi infatti ho detto non so questo elenco che cosa rappresentasse, però secondo me io non so come si possa. Scusa, volevo dire una cosa, già oggi alla diciamo, identità digitale, ci sta già la patente che è digitale, c'è la carta d'identità che è digitale, già c'è un sacco di quindi roba. Ci sono già delle realtà concrete, diciamo, da questo punto di vista di controllo, no? Io ho rinnovato da poco il mio passaporto, volevo dire, non la patente, il passaporto, ed è tutto digitalizzato, diciamo, in questo ambito. Quindi già è una realtà. Allora ci sta Valerio. Sì. Io sono dell'antifascista contro il pass di Bologna, rigorosamente declinato al femminile, vabbè, in parte perché sono più donne che uomini e poi perché dopo qualche centinaia d'anni si può anche declinare il collettivo al femminile. E noi siamo partiti in modo del tutto analogo a quello che ha descritto il primo intervento della serie, cerchiamo di far qualcosa. La cosa partì su iniziativa di un gruppo all'interno del nodo antifascista bolognese che su questa cosa si spaccò poi perché diciamo quello che io chiamo il fascio vaccinismo è diffuso in maniera assolutamente impensabile e in modalità assolutamente stupefacenti. Avevamo fatto un documento che tra l'altro lascio qui, vabbè, questa è già una seconda edizione con un altro po' di robe, a me piaceva più la prima anche perché eravamo riusciti a farla colorata, dove ci sono i nostri anche per raggiungerci, il sito e una mail, perché io mi chiedo rispetto a queste cose, invece di stare a raccontare tutte le belle cose fatte, appoggiala che... cose, come si può fare a rimanere in contatto, perché una delle cose che noi abbiamo provato a fare, direi, non mi ricordo neanche più ormai quanti anni sono passati, due forse già tre, è il fatto di riuscire ad avere un po' di rete di connessione. Al di là delle reti un po' personali così non siamo riusciti a fare, abbiamo tentato di fare un'assemblea diciamo emiliana, è arrivato un po' di gente così, ma non è andato avanti niente se non a livello personale, che c'hai qualche contatto e ti dici qualcosa, man mano succede qualcosa su qualche territorio. Banalmente, oltre adesso la faccenda di Pesaro, che da noi è abbastanza vicina, c'è il 6, mi sembra che c'è della roba rispetto al problema delle navi gasiere e quant'altro a Ravenna. Siamo tutti molto in rincorsa dell'esistente, cioè di fatto si fa anche fatica a pensare cosa vogliamo fare, perché sono talmente tante le cose che ci stanno saltando fuori una dietro l'altra, che all'inizio siamo partiti cercando di fare un po' una cassa di sostegno parzialmente riuscita per soprattutto i sanitari sospesi, che è stato il grosso delle sospensioni che ci sono state dalle nostre parti. Però appunto, mi arrelaccio anche a quello che è stato detto un attimo fa, bisognerebbe ritornare proprio sul discorso Green Pass e come sta evolvendo adesso, perché io ogni tanto lo dico anche alle mie riunioni, dico noi siamo nati su quello e va bene che tutti gli argomenti sono fortemente interconnessi, per cui è difficile dire che la guerra non c'entra col Green Pass o che le navi gasiere non c'entrano con la guerra, cioè, anzi le navi gasiere sono la guerra fondamentalmente. E quindi capire un po' se si riesce a inventarsi una qualche forma di rete per rimanere un po' sul coso. Mi ha fatto molto piacere questo documento di Venezia, che adesso guarderò con interesse, perché in effetti sta roba, come dicevate anche qui a Roma, così ogni città la sta declinando a modo suo, con una scarsa visione da parte della cittadinanza di quello che questo ti toglie. Banalmente, io spesso mi diverto, adesso ad esempio a Bologna hanno sostituito i parcometri, bruttissima parola che oso dire, con i parcometri dove devi segnare la targa dell'auto, allorché a uno gli viene da dire, ma ti interessa che io ti paghi la sosta o ti interessa sapere io dove sono? Poi un altro dettaglio, succederà anche qui a Roma, chi è in una zona a traffico limitato o a soste contingentate deve autorizzare una specifica macchina, cioè il diritto della sosta non è il tuo, è della macchina, ed è una cosa che quando la racconti in giro fai fatica ad essere compreso, perché sembra che non ci sia differenza, ah, ma è la mia macchina, e cosa vuol dire? Se un giorno ci vogliamo scambiare le macchine perché ci tira così, perché tu non puoi andare a parcheggiare? Cioè il diritto è il tuo, quindi dovresti avere, che ne so, un taloncino, un qualcosa. Tutte cose che è ovvio, poi si spiegano perché, è ovvio che mettere la targa vuol dire che intanto so più o meno la tua macchina dov'è, in domani sostituisco il controllore del traffico con un robottino che va in giro leggendo le targhe e quelle che non sono abilitate, qui sanzione. Vabbè, scusate, mi fermo, ho detto cosa, a me interessava se si riusciva da questa riunione che potesse saltare fuori o un minimo di rete oppure un po' qualcosa da tenerci un po' d'occhio. Vabbè, noi adesso abbiamo un sito in cui purtroppo le robe riusciamo sempre a metterne in ritardo e questo non è bello, e alcune sono anche già un po' obsolete quando vengono messe, perché l'altro grosso problema di adesso è che il sistema va avanti ad una velocità che siamo sempre indietro e la realtà è più avanti per parafrasare qualcuno. chi è? No. No, volevo dire, io penso che tutti quanti gli interventi che ho sentito io, a meno che non stavo fuori a fumare praticamente, sono nati sostanzialmente, capito, nella direzione che in pratica, cioè sulle nuove tendenze che ci stanno, mi sembra chiaro che la questione è, da una parte la guerra sul fronte esterno, sul teatro europeo, l'altra, capito, è fondamentalmente il fronte interno con l'irregimentazione delle masse da questo punto di vista. Questa cosa qui parte come paradigma, tra virgolette, sulla questione ovviamente del Green Pass, obbligo vaccinale, capito, dintorni, per l'irregimentazione delle popolazioni, no? Con varie modulazioni che ci sono state rispetto ai governi, agli intendimenti dei governi nelle varie nazioni europee. Qui è funzionato praticamente alla grande per tutta una serie di condizioni e anche per l'adeguamento, e questo va detto in ogni stanza, di quella che è la sinistra e soprattutto la sinistra antagonista a quello che è praticamente un'ipotesi parastatale governativa. In questo senso, quantomeno, capito, tutte quelle situazioni, tra virgolette, per quello che ci riguarda di movimento, dovrebbero fare una disamina e un'autocritica feroce su quello che hanno appoggiato fino adesso a livello governativo, no? Se non fanno questo, in termini epocali e di quello che poi può succedere rispetto all'antagonismo a quello che verrà espresso, ovviamente stanno fuori o stanno dall'altra parte, quella nemica fondamentalmente. L'altro aspetto è la barricata, no, è ovvio che praticamente o si sta da una parte o si sta dall'altra. Le questioni all'ordine del giorno sono queste, e tanto per parlare solamente dell'Europa, lasciando perdere il resto del mondo, no? Per stringere, cioè quello che sta accadendo in Francia, che è la punta più avanzata in mezzo alle contraddizioni, a tutto quello che c'è, è una cosa che ci riguarda e su quale c'è il silenzio assoluto da parte dei cosiddetti movimenti antagonisti. Noi, che da questo punto di vista rivendichiamo, capito, il diritto a essere stati, non noi questi che siamo qua, tutta questa area qui, essere stati i primi che, sfidando la censura, la religione, la messa al bando, e non ce le scordiamo queste cose, il fatto di essere stati dichiarati amici dei fascisti o di Forza Nuova, e la voglio ribadire questa cosa qua, abbiamo avuto la comprensione che questa qui era una svolta non tanto di fase, è una svolta quasi epocale nei rapporti di forza fra le classi, perché questo non ci dobbiamo mai scordare, è una cosa che riguarda l'umanità in generale, ma l'umanità è divisa in classi, quindi la percezione di quello che accade a livello societario è diversa e riguarda la materialità. Per esempio, se mettono una ZTL col controllo della macchina, è ovvio che la mia percezione e la mia realtà, quando non ho i soldi per comprarmi un'auto ibrida o elettrica, sarà sicuramente diversa da un borghese che se può comprare la Tesla che costa 20.000 euro. Siamo sempre nel campo della merce, da questo punto. Siamo sempre nel campo della merce da questo punto di vista, però lui sicuramente aveva una vita alienata quanto la mia, forse di più, ma sicuramente, capito, più spensierata, mentre io poi magari ho anche il problema del salario, che è materiale, c'ho il problema della vita, mentre lui invece sarà circondato de merce e de feticcio de merce, quindi la sua percezione è diversa, perché le classi d'appartenenza non bisogna mai scordarle, c'è una borghesia e un proletariato. Parlo da comunista dentro un'area che è mediamente libertaria o anarchica, però è un mio pensiero, quindi cerco di essere sintetico. Il problema è la guerra interna e la guerra esterna, nel senso che se si fa una guerra esterna è necessario un fronte interno pacificato, fondamentalmente gli riesce bene qua in maniera egregia, gli riesce, diciamo, meno bene in Francia, da questo, tutta una serie di condizioni. Qui la pensione a 67 anni è stata portata col placet di CGL, CISL, UIL, lì nel momento in cui la portano a 62, 64, bruciano le prefetture, bruciano Equitalia francese, non so come cazzo si chiama, scusate il termine sessista, ma questo è, fanno il panico dalle città di provincia fino, capite, a Champs-Élysées, credo che si pronunci così. Allora, la questione è questa, noi ci dobbiamo connettere con quello che c'è di avanzato, quantomeno in Europa. Quindi uno dei primi punti è costruire iniziative a fianco dei lavoratori francesi, uno. Il secondo punto è mettere, ripulire le stalle d'augia all'interno dei movimenti antagonisti, no? Nel senso, stabilendo quello che è successo, quelle che sono le responsabilità politiche epocali di una parte del cosiddetto movimento antagonista e dirle in maniera chiara, diretta, cruda, nel senso, un termine, capito, francesizzo, brutti stronzi, capito, vi siete adeguati, capito, a livello statalista, o fate una cruenta autocritica su questa cosa qua, oppure voi siete carne di porco, fondamentalmente, siete adeguati col potere esistente, siete nemici, state dall'altra parte della barricata. Purtroppo è questo, purtroppo siamo figli unici da questo punto di vista. L'altra questione è la questione della guerra, ce ne frega un cazzo, filo Putin, no, non siamo filo Putin, non credo che nessuno di noi sia filo Putin. Il problema in Italia, come in Ucraina e Zelensky, come Russia e Putin, e qui in Italia la NATO, fondamentalmente, sono le servitù militari, no, che mandano i carri armati in Ucraina, sottraendoli alle spese sociali, quindi un discorso a livello di agitazione e propaganda, io la definisco, è le spese, ho finito, le spese militari, capito, vanno eliminate, le spese militari pesano sul portafoglio della gente, quindi va fatta la campagna sulle spese militari e sui profitti che vengono fatti sulla guerra, fondamentalmente è questo. E il compagno di Bologna, Bologna, Emiliano, comunque Bologna, bisogna costruire un coordinamento a livello nazionale, bisogna costruire una cassa di resistenza e coordinarsi, tocca dare una struttura nazionale a quelli che sono gli intendimenti, su questi terreni, guerra, movimento avanzato dalla Francia, e puntare, capito, come un treno sulla questione digitalizzazione, Green Pass, controllo sociale. Questi sono i paradigmi, tra virgolette, sul quale dobbiamo agire, fondamentalmente. Ho finito, mi sono alla sveglia, non ho capito perché, però. Vabbè, io volevo aggiungere... Volevo aggiungere solo un elemento che mi sembra che è rimasto un po', diciamo, in, un po' più in ombra, anche se so che qua, come nell'Assemblea No Green Pass, c'è una sensibilità rispetto a determinati temi, però devo notare che spesso nei dibattiti pubblici è una cosa che viene messa un po' meno in risalto. Io sono d'accordo in linea di massima sugli interventi fatti finora, anche sull'ultimo, nel senso essere molto vigili e molto attenti su tutti i dispositivi che di volta in volta vengono messi in campo. Questo riguarda zona ZTL, riguarda la nostra possibilità di usufruire dei servizi, riguarda il nostro futuro, nel senso che andremo incontro, si è creata da poco, insomma, non so da quanto, ma esiste una commissione europea che già lavora al prossimo Green Pass, che riguarderà i prossimi vaccini, che riguarderà tutta una serie di cose. Questo, diciamo, se io lo inquadro in quell'ambito di aspetti che sono, diciamo, abbastanza visibili, no? Tra virgolette, sono in qualche modo riconoscibili, perché noi abbiamo fatto questo lavoro appunto da quando ci è stato imposto questo benedetto Green Pass, e quindi abbiamo sviluppato una sensibilità per riconoscere questo tipo di cose che vanno assolutamente all'attenzione, ripeto, è di fondamentale importanza stare sul pezzo e di volta in volta, che sia ZTL, che sia wallet cittadinanza, che sia tutta una serie di cose, contestare immediatamente con le forme che riteniamo più opportune e starci sicuramente. Il lato meno chiaro, diciamo, di cui si parla di meno, anche perché c'è una difficoltà maggiore forse a esplicitarlo, è il fatto che ci sono tutta una serie di dispositivi che riguardano principalmente l'aspetto medico, l'aspetto biotecnologico, l'aspetto di ricerca un po' più spinta, che di fatto danno un'altra prospettiva, nel senso che è un po' meno classista come cosa, nel senso che io sono d'accordo assolutamente, ripeto, lo ribadisco, che la maggior parte dei dispositivi messi in campo sono di tipo classista e purtroppo ce li subiamo noi sulla nostra pelle, perché qui chi si può permettere altre strade magari se lo può permettere, ma ci stanno per esempio sul miglioramento dell'essere umano, che non possiamo solamente pensare ai vaccini come una cosa, per esempio, che voglio dire, alcuni scienziati dicono che fanno male, altri dicono che fanno meno male e via dicendo, e si continuano queste diatribe, queste cose così. Il discorso è un altro, va preso nella sua interezza. Il discorso è che il potere lavora alla sostituzione dell'essere umano, e il processo di artificializzazione è un processo di compenetrazione dell'umano nell'artificiale, è un processo che va avanti, so come dire, a prescindere da noi, a prescindere dalla critica che oggi noi mettiamo in campo. Cioè, è come se fossero due strade un po' parallele, io me le immagino un po' così, no? E quindi che succederà? A un certo punto si arriverà, secondo me, a semplicemente ad avere dei cittadini che accettano, o degli umani che accettano l'intromissione dell'artificiale, e altri che non lo accettano. Questo a tutti i livelli, appunto, ripeto, dai dispositivi più stupidi, non posso entrare con la macchina, fino a mi posso curare in un certo modo piuttosto che un altro. Purtroppo diciamo che questo concetto macroscopico noi dovremmo averlo sempre ben presente, perché solleva delle questioni che vanno proprio a confliggere con la nostra concezione di progresso umano, di vita su questo cazzo di pianeta, sono problemi diciamo di natura un po' più generale. Accanto a questo mi viene da dire che poi c'è sta la materialità della lotta, nel senso che appunto oggi mi fa piacere, insomma, che tanti si sforzano di individuare degli obiettivi per cercare di essere concreti e materiali su questa cosa qui. È fondamentale questa cosa, perché la dematerializzazione di quello che noi facciamo nella nostra vita quotidiana e nelle lotte pure, soprattutto, è un qualcosa con cui purtroppo dobbiamo fare i conti. Quindi pure occhio a dire, cioè, nel senso, in Francia sì, hanno spaccato tutto, però non hanno risolto niente. Sì, però si sono giocati qualcosa. Si sono giocati qualcosa. Io penso che questo rapporto di causa-effetto nelle lotte e in quello che facciamo quotidianamente vada ritrovato in qualche modo. E tra l'altro, diciamo, cercare di contemplare in questa cosa qui l'estrema diversità di forme di lotta che si possono mettere in campo. La lotta ad Alfredo Cospito, diciamo, tra le varie cose che ha sollevato, che non ha sollevato solamente la questione del 41 bis, la lotta di Cospito ha sollevato anche altre questioni di cui anche qui si parla purtroppo, secondo me, un po' pochino, è il fatto di attaccare frontalmente determinati dispositivi. Non parliamo solo dello Stato in generale, parliamo dei dispositivi che rendono totalizzante il potere, cioè, nel senso, come la tecnologia nucleare, per esempio, no? Cioè, la tecnologia nucleare è un tipo di tecnologia per la quale, già per come è concepita, per come è impostata, automaticamente fa fuori tutti i tipi di critica dal basso. Cioè, un povero comune Cristo mortale non si può permettere di dire quella cosa lì non va bene, perché te chi cazzo sei? Non puoi risolvere, adesso abbiamo le scorie sotto il culo, te non sei capace di gestire. Questo è già la differenziazione fra un essere umano di serie A e un essere umano di serie B, che deriva da secoli di scientismo, di progresso tecnologico di un certo tipo, però che comunque c'ha sempre nuova linfa, si sviluppa questa cosa. Il divario, quello che Gunther Anders chiamava il dislivello prometeico, aumenta sempre di più. Noi ci ritroviamo ad avere questi tipi di meccanismi irreversibili, sempre più totalizzanti da questo punto di vista, e non è solo nucleare, ce l'abbiamo con le biotecnologie, tutto quello che stanno facendo, tutta la trasposizione fra tecnologia mRNA e la cura di tutta una serie di malattie ci deve far pensare da questo punto di vista. Perché? Perché i cancri aumenteranno, cioè, voglio dire, in un territorio sempre più compromesso è chiaro che la metastasi va avanti senza proprio a sprombattuto, e quello che rimarrà alla fine, se non c'è una voce che dice no, io non lo faccio, sarà accettare tutto quello che ci viene proposto, accettare per forza o per piacere. Questo qui è una cosa che purtroppo riguarda non solo noi poi sfigati che siamo una lira, che non si potevamo permettere certe cose, riguarda un po' tutti, ecco, volevo aggiungere questo. Okay, adesso ci sta Erika, e poi Silvia che deve andare via. Posso davanti qualcuno, ma sono quel bambino al quale devo andare via. Io volevo più che un'affermazione, volevo fare una domanda, nel senso che molto pratica, e sarò anche molto breve. Chiaramente negli ultimi anni, con tutto quello che è successo e con il volta faccia di varie realtà su cui invece si contava moltissimo, con cui ci si è battuti per tanti anni, soprattutto in una zona così piccola come dove vivo io, cioè il Viterbese, mi è toccato fare un po' riferimento e organizzare situazioni un po' diverse, ambiti di riferimento un po' diversi. E quindi all'interno di questi ambiti di riferimento, anche un po' per rispondere al ragazzo insomma che diceva prima, toccherebbe fare delle reti, sì. Io la rete con cui negli ultimi mesi di tutto il delirio, vaccini Covid e quant'altro, mi sono un po' riconosciuta per varie cose, per tante altre no, un po' troppo pacifisti, però comunque fondamentalmente è un comitato di liberazione nazionale che adesso insomma ha sposato questo referendum contro la guerra. La mia domanda è, cioè, rispetto a questo referendum, cioè organizzato da comitati spontanei, assolutamente, tra l'altro anche veramente apartitici, come ci poniamo? Nel senso, comunque una cosa, cioè io penso che sarei interessata a portarla avanti, perché è una cosa comunque pratica che almeno per tot anni, cioè, possa impedire comunque quantomeno il finanziamento. Uno dei tre quesiti è proprio, uno è sulla salute e uno invece proprio sulle spese di guerra e sul non dare appunto contributi e ulteriori spese di guerra. Quindi quantomeno dal punto di vista quantomeno economico tirarsi fuori da questa guerra. Voi, nel senso, è chiaro che è questa, perché un referendum dura 5 anni, il quesito comunque referendario può fare qualcosa per i prossimi 5 anni. Chiaramente qua di guerra ormai cioè non c'è stata mai un'epoca con così tante guerre come in questo momento. Esatto, però cioè, visto che sì, tante parole, però di pratico, nell'immediato che si può fare, perché tanto comunque possiamo anche continuare a ridirci tutte le idee giustissime che abbiamo, però ci può interessare questo tipo di strumento? È una cosa, io ti dico, 4 anni fa non l'avrei neanche mai considerata come situazione, però in questi anni in cui comunque mi sono molto separata da tanti ambienti anarchici di cui io non ho sempre fatto parte, e avvicinandomi magari a realtà, cioè per disperazione ad altre realtà, ti dico anche questa realtà che comunque è una realtà nazionale completamente indipendente da ogni forma partitica, stanno portando avanti questo tipo di strumento. Ci può interessare? Io sto facendo una domanda. Basta, ho finito. Diciamo che allora io prima ho parlato, no? Ho espresso quello che secondo me è la chiave di analisi, no? Una tra le mille possibili approfondimenti di una chiave di analisi che effettivamente c'è, diciamo, tutti noi stiamo facendo un po' ognuno nei nostri contesti sicuramente, e per fare un quadro, no? Però effettivamente poi noi in fondo siamo qui. Perché siamo qui? Siamo qui perché non sappiamo che cazzo fare per affrontare questo diciamo attacco proprio senza, diciamo, spazi del capitale, o per spiegare, attraverso lo Stato, o addirittura, no? Praticamente assolutamente sovrapposto, cioè lo Stato capitalista, è chiaro, è evidente, no? C'è una sovrapposizione a tutti molto evidente. Dunque, la questione, anche perché, vabbè, è... Bene, abbiamo faticato tutti moltissimo, sicuramente in ognuno dei contesti che abbiamo vissuto, per questa storia di questa fissa che ci è presa contro questo cazzo di Green Pass. Cioè, abbiamo sofferto nell'intimo, da fascista de merda a criminale de guerra, ho sentito varie cose, a... Boh, brava negazionista, a, diciamo, a untori pure, perché l'untori ne vogliamo buttare via. Tante responsabilità, no? Diciamo, per resistere a questo comunque abbiamo dovuto dare forza a quella vocina, quel fastidio, quel rodimento di culo, parliamoci chiaro, che è dentro ognuno di noi e dice no! Non si può fare sta cosa, finché sono viva io questa cosa non si può fare, ok? Praticamente non è questo, con la mia collaborazione. Non con la mia collaborazione almeno, cioè farò tutto ciò che è mio potere per darti fastidio, per rompere, allora la parola magica è rompere, in ogni cosa. Ora magari io spero che ci diamo un appuntamento, io spero che, visto che non è che da un incontro parte, no? Parte una chiarezza. No? Allora, questa chiarezza per me passa attraverso alcune cose, cioè il fatto è questo: sostanzialmente siamo tutti consapevoli che questo è un attacco sferrato e che indubbiamente da tutti i punti di vista adesso o la va o la spacca. Ora, questo spacca non sempre a livello figurato come prima, tocca che lo facciamo noi. Perché il momento di rottura non è che ci aspettiamo che arriva da chissà chi, da chissà come, oppure noi dobbiamo fare tutto ciò che è il nostro potere per rompergli i coglioni. Questo è il concetto, ma no rivendicando qualche cosa, ma domandandoci ogni volta che organizziamo qualcosa, ok, come gli sto rompendo i coglioni? Perché se non serve, siamo pochi, abbiamo poche energie, non abbiamo una lira. Ok? C'abbiamo la repressione sul collo, lascia perdere, il punto è il punto di rottura. Allora ogni cosa che ha un punto di rottura va assolutamente sostenuta, va organizzata, va strutturata. Ora, chiaro, in ogni una delle lotte che noi vediamo, no, c'è un punto di rottura che abilmente viene, no? Viene un pochino glissato, viene spostato, viene condizionato a varie cose di cui no, parleremo forse un'altra volta. Morale della favola, noi non riusciamo a inserire il punto di rottura, quindi qualunque cosa in realtà può essere dirompente se ci occupiamo di questa cosa, se partiamo da questo punto di vista. Cosa gli rompe i coglioni? Allora, telefoni, gli rompe i coglioni il fatto che di non essere perennemente connessi. Perché gli rompe i coglioni, sono soldi, sono flussi di marketing di merda che si incastrano, si interrompono, no? Non hanno, quello loro vogliono che tu sia perennemente reperibile in tutte le tue forme di espressione esistenziale, bene, no o mai o sempre, tu dentro a questa casellina non mi ci devi mettere, cioè io, tu di me una casella non devi fare, quindi farò quello che mi pare. Farò quello che mi pare, che cazzo, una volta ci avrò. No, per la questione, se io, a me mi serve lo smartphone, non lo uso, certo al lavoro lo posso usare, non è che per tutte le volte che vado a farmi i cazzi miei in giro devo stare lì a leggere tutte le stronzate che mi scrivono in quel momento, non serve, a me non mi serve, te serve a te, ho capito, trova un altro modo. È chiaro, ogni rottura da comportamento individuale o collettivo, ci sono alcune discriminanti ovviamente, la prima ahimè a Roma nel contesto in cui viviamo tutti è la volontà rivoluzionaria, in ogni cosa che si fa ci deve essere volontà rivoluzionaria, che non vuol dire che io sto a fare una rivoluzione, vuol dire che davanti alla scelta ci deve essere la volontà rivoluzionaria, cazzo, no, può essere che sta cosa mi va bene, se più è un progettino, mo parlo fuori dai denti, sto un po' più tranquillo, no, la volontà rivoluzionaria, senza se e senza ma. La seconda è l'antifascismo, è chiaro, cazzo, l'antifascismo per forza, che vogliamo fare? In un senso ampio di antifascismo, per favore, in un senso un po' più ampio di questo antifascismo, perché noi abbiamo assistito a veramente con la pandemia la prima sperimentazione di fascismo non democratico, parliamoci chiaro. Terzo, la discriminante un pochino, no? Tra virgolette istituzionale, in questo caso mi aggancio chiaramente al referendum, il referendum ha un senso se è mosso da un movimento di massa di lotta. Allora è una forma di, diciamo, di democrazia diretta, che in una fase dove per la maggiore vasta cazzo di democrazia, perfetto, allora si può usare volendo, ma non se si pensa essere la soluzione di un problema. Non è la soluzione, perché se ne fottono del quesito del referendum, ovviamente l'interesse del capitale è molto più ampio, quindi arriva referendum, perché nel frattempo c'è un movimento di massa o comunque dirompente, di rottura, ok, che mi porta, no, a dirti mo stiamo qua, che volemo fa è un conto, ha una valenza politica, altrimenti non lo so. È come se trovassimo sempre, è come se dentro di noi ci avessimo sempre questa storia di questa democrazia che ci dirompe. Oh, la democrazia è la forma della borghesia per gestire il capitale all'interno di ogni Stato, di questa parte di mondo o di alcune parti, altre parti, da altre parti serve la dittatura, se usa la dittatura, oh, sai che c'è? Che me ne frega a me, questi sono una massa dei coglioni, no? Allora, se io gli dico che l'importante è parlare liberamente di tutto, faccio le consulte, faccio il Parlamento, faccio, no, chiudo, e quindi chiaramente avranno questa percezione di partecipazione, che non è partecipazione, no? Non è assolutamente partecipazione, quindi la rottura, la partecipazione attiva, l'antifascismo e la non appartenenza a partiti istituzionali, a movimenti istituzionali, a sindacati confederali, cioè, perché ad oggi la lettura che si può dare di questo è solo una lettura di collaborazionismo come minimo, no? O di, direi fortemente forti interessi economici vogliono dire interconnessi, quindi ci rivediamo, secondo me diamoci una punta, cerchiamo di ragionare su ogni cosa, ma fino a che non ci rivediamo, vi prego, ognuno in ogni realtà, quello che si deve chiedere ogni volta che organizza una cosa, da un volantinaggio fino a l'occupazione di X o fino a il blocco stradale, è: sto rompendo i coglioni? Il punto di rottura di quella specifica iniziativa, perché così forse capiamo anche un pochino forse il livello di quello che ci deve unire, data la consapevolezza che ci viene data da questa gestione della pandemia, no? Così palese tra di noi, bene, capiamo che l'unico modo è rompere, cazzo, deve essere rompere, non ci può stare niente in mezzo. Quindi ovviamente se rompi i coglioni, spengo il telefonino, gli rompo, bene, campagna, ognuno spegne i telefonini, che ne so, X ore al giorno, che ne so, gli rompo i coglioni davanti a un supermercato, come? Nel caro vita, come? Nella guerra, come? Chiudo. Scusate, stiamo facendo girare un foglio per prendere i contatti per fare una lo passiamo, vediamo in giro nel frattempo. Ci abbiamo ancora 3 interventi per ora, in modo tale che per le 8 tendenzialmente abbiamo chiuso, sono le 7:30. No, decidiamolo insieme magari, perché poi ci sta lo show. Facciamo gli ultimi 3. Gli ultimi 2. Chiusi gli interventi. Chiusi gli interventi. Non provocare esigenza magari di dire qualcosa che ancora non ha parlato. Sì. Sono 20 interventi, ma... Se qualcuno... Si poteva prenotare 2 sulle 8. Vai. Mezz'ora insieme. Vai, Silvia. Sì. No, grazie Silvia, no? Per l'intervento, però purtroppo non mi convince questa cosa appunto del, per esempio, astenersi dallo smartphone. Sicuramente è giustissimo che ognuno può fare per conto proprio, però non ha un effetto, cioè alla fine gli si fa un cazzo neanche con questo, no? Io volevo, proprio perché sul che fare non ho proprio idea, infatti insomma vengo qua apposta anche per ascoltare i vostri punti di vista. Volevo fare un passo indietro e invece tornare un pochino sulla teoria, perché credo che comunque sia molto, molto importante armarsi proprio anche delle questioni, cioè degli strumenti teorici per analizzare il momento in cui stiamo vivendo. E quindi quando Pier prima parlava della frase di Macron, no? Quando ha detto Macron: sì, ho sentito la rabbia dei francesi, ma questa riforma delle pensioni è necessaria. E la necessità, no, è un po', diciamo, il punto centrale di tutta la situazione che stiamo vivendo. E mi è venuto in mente un articolo che leggevo in treno mentre venivo qua, di Fabio Vighi, che si chiama Capitalismo senile e demolizione controllata, molto interessante, in cui lui fa un po', diciamo, il quadro della situazione, no? In una pagina elenca quelle che sono proprio le caratteristiche di quello che stiamo vivendo, e siccome me l'ero un po' appuntati, ora ho pensato così di leggerli, no? Anche se li leggo al contrario, dall'ultimo. Una di queste sicuramente, insomma, sotto gli occhi di tutti, la manipolazione, no? Quindi la dislocazione permanente del senso di realtà. Quello che è reale è solo quello che viene visto alla TV, questo lo vediamo chiaramente con quello che succede con con la Francia, ma non solo, e quindi la rappresentazione mediatica come unica realtà possibile. Chiaramente le emergenze, un'emergenza dopo l'altra, questo emergenzialismo integrato permanente, emergenza chiaramente pandemica, emergenza della guerra, ma anche emergenza mafia, emergenza terrorismo, che servono a giustificare cosa? Giustificare la repressione sul fronte interno, la vediamo chiarissima nel caso d'Alfredo, ma anche quella che è venuto fuori con Venezia, con Roma, quella che secondo me si potrebbe anche iniziare a chiamare la tornellizzazione del mondo, cioè tornelli posti ovunque per entrare nelle città, nei centri delle città. In Toscana c'è la spiaggia di Cala Violina, che ci puoi entrare solo prenotandoti online e con un codice QR. Quindi questa cosa vedo, insomma, che è proprio evidentemente sotto gli occhi di tutti. Poi allo stesso tempo anche Lello aveva fatto riferimento a questo, la demolizione controllata della domanda, cioè siamo passati da un capitalismo le cui parole d'ordine erano consuma, se vuoi, se ti sforzi puoi diventare qualsiasi cosa, a bisogna sacrificarsi per il bene di tutti. E siamo passati appunto da un capitalismo dei consumi a un capitalismo della gestione della miseria collettiva, della sopravvivenza, ma in cui proprio bisogna trattenersi, no, dal consumare per il bene di tutti. E questo effettivamente, se ci fate caso, è una l'idea di sacrificarsi per il bene degli altri è diventata la parola d'ordine dell'elite. Quindi io credo che sia importante sottolineare come è stata introdotta questa è stata aggiunta questa questo accento sulla responsabilità individuale e il senso di colpa. Quindi, che ne so, bisogna stare attenti nei consumi per il discorso dell'emergenza climatica, o mi devo vaccinare per l'emergenza pandemica. Io credo che questo sia importantissimo smascherarlo nei nostri discorsi. E poi vabbè, questo Fabio Vighi è uno che parla, cioè veramente molto ferrato in finanza, non è il mio caso, quindi gli ultimi due punti ve li dico così come li ho capiti io. Comunque, chiaramente il capitalismo di oggi è caratterizzato da queste bolle finanziarie che sono diventate l'unico meccanismo di produzione della ricchezza, infatti banche che collassano, Silicon Valley Bank ed altri che insomma che hanno seguito, e poi questa cosa dell'espansione del debito ad infinitum, no? Cioè la quantità di pagherò che girano nel mondo sorpassano infinitamente quello che sono poi le garanzie di poter ripagare questo debito. Tutto questo come viene affrontato? Attraverso programmi di creazione di liquidità, come è il caso del PNRR, che in realtà vediamo che sono, prima cosa, una distruzione assoluta anche del mondo, della natura, perché tutto viene messo a valore. E allo stesso tempo serve a finanziare una trasformazione in chiave tecnologica che procede nella più totale opacità. Faccio due esempi. Io sono insegnante tuttora, per adesso, nella scuola pubblica, e il fatto di introdurre le LIM, le lavagne elettroniche nelle classi, è qualcosa che nessuno ha potuto esprimersi al riguardo, però ne va dei ragazzi, cioè i ragazzi guardano per 6 ore di seguito uno smartphone gigante di 2 metri per 1. Tutti i soldi del PNRR, per esempio, quando vanno nella scuola vanno... La mia scuola li ha richiesti e hanno scoperto, poi i miei colleghi sono caduti così dalle nuvole, che c'era il vincolo che il 70% di questi soldi doveva essere speso in oggetti tecnologici. No? Però almeno non finanziano più gli invalsi al 100%, quindi hanno però gli altri 30 se li hanno per gli invalsi. Non ti scampi. Oppure, quindi io credo che sia molto importante proprio anche riflettere sull'opacità di questo di questo della direzione della, della digitalizzazione che abbiamo visto, questo scusate lo ricordo perché secondo me è importantissimo, non se ne parla mai a sufficienza, come nei due mesi del primissimo lockdown, in quei due mesi i ragazzi hanno, almeno nella zona dove viviamo noi in Toscana, hanno messo antenne 5G, che quando siamo riusciti di nuovo, che ci siamo mossi, era cambiato il paesaggio da quante antenne 5G avevano messo. Anche questo è stato fatto, insomma, così, nottetempo, mentre non si poteva fare... Cioè, in un'epoca in cui ancora i sindaci si potevano opporsi, poi dopo con non so che decreto insomma è stata tolta anche questa possibilità. Comunque il discorso di Fabio Vighi è questo, che ci troviamo di fronte appunto a un capitalismo senile che determina un collasso socio-economico globalizzato e che ci sta portando velocemente alla dissoluzione del contratto sociale. Ecco, io questo penso che sia importante rifletterci. Scusate se... Allora, io volevo toccare due punti molto velocemente. Uno riguarda quello di cui parlava la compagna prima, riguardante il referendum eventuale, l'appoggio o l'utilizzo del referendum come arma di lotta e di contrapposizione alla guerra. Io personalmente non concepisco nessun tipo di, in qualche modo, utilizzo di forme legalitarie, e il referendum ne è un esempio molto, in qualche modo, sviante. Facendo due esempi del passato, sviante nel senso che ti illude chi lotta, che il referendum sia una forma di opinione, di un'espressione di un'opinione che viene dal basso, di una forma di democrazia diretta, chiamiamola tra mille virgolette così, che possa portare a un qualsivoglia risultato. Molto semplicemente basta andare indietro di 15 anni e di 30 anni per vedere che è molto fittizia come cosa, nel senso che negli anni 80 c'è stato il referendum sul nucleare, sì, la stragrande maggioranza delle persone si è espressa contro il nucleare, hanno aspettato quando serviva loro, le tempistiche che servivano loro per reintrodurlo, e adesso il nucleare lo stanno reintroducendo, e non è il nucleare degli anni 80, ma purtroppo per noi è il nucleare, non lo so, 5-6.0, quindi... No, la stessa cosa. No. Sì, ovviamente a livello di non di tecnologia in senso stretto, ma lo spacciano come nucleare sicuro, nucleare che non crea nessun tipo di possibilità di incidenti, eccetera, eccetera. È ovvio che è la stessa tecnologia. Nucleare buono, esatto. Referendum o non referendum. L'altro esempio molto più recente è quello sull'acqua pubblica. Referendum sull'acqua pubblica, stragrande maggioranza ha vinto il referendum che impediva in qualche modo la privatizzazione dell'acqua. L'acqua è gestita, poi dipende dalle varie regioni, ma l'acqua è gestita da privati, quindi non penso che possa essere quella una forma di lotta presa in considerazione. Un altro punto, e mi riallaccio a quello che diceva Curzio prima, è per quanto riguarda la tecnologia e l'approccio che ognuno di noi in maniera critica dovrebbe avere in ogni aspetto della nostra vita, dal privato ai rapporti sociali, alla lotta politica, in qualsiasi forma, la tecnologia dobbiamo, secondo me, capire che sta influenzando non solo le macrosfere a livello generale, tutto ciò che già adesso è in essere e quello che verrà dopo con tutta la sperimentazione biotecnologica, il fatto che tra un po' fisicamente non esisteremo più di carne ed ossa, o non solo nel primo passaggio, ma si andrà verso qualcos'altro. Ma anche a livello comunicativo, secondo me, un argomento che non è stato tirato fuori e che secondo, a mio parere, è molto importante, è che qualsiasi forma di comunicazione verso l'esterno, diciamo, chiamiamola così, deve prendere in considerazione il fatto che ormai al giorno d'oggi sempre di più, e la pandemia ha in questo caso rappresentato un'accelerazione incredibile sotto questo punto di vista, le persone ragionano in maniera diversa da come ragioniamo noi. Il cervello delle persone ormai, a livello cognitivo, tra virgolette, ma togliendo anche le virgolette, funziona in maniera diversa rispetto a chi ha una mente più critica e ha una capacità di analisi che ha portato a formare questa assemblea, comunque che ha spinto anche le varie sensibilità ad affrontare argomenti come il Green Pass o come anche prima altri temi. Purtroppo la nostra voglia, la nostra spinta verso la comunicazione, verso l'esterno, deve tener conto, e non sto ovviamente dicendo di utilizzare quei meccanismi, quei canali, assolutamente, però deve tener conto del fatto che ormai la stragrande maggioranza delle persone di qualsiasi fascia d'età, ma soprattutto le persone più giovani, partendo purtroppo anche dai bambini, nascono e crescono avendo come mezzo di comunicazione, anche nelle tempistiche, lo smartphone, il computer, il tablet, tutto quanto. Quindi anche a livello di capacità di capire, di leggere, di comprendere un testo, ma anche banalmente una chiacchierata, un confronto vis-à-vis, è diverso da quello a cui siamo stati abituati fino adesso. Io lo vedo purtroppo perché ho una bambina di 7 anni e già a quell'età le sue coetanee ragionano, parlano di cose, di argomenti e hanno una, al di là del tema del discorso, hanno un approccio legato all'uso di questi mezzi che i genitori usano molto molto alla leggera e quindi ovviamente rigettano su di loro. Loro sono crescono in quell'ambito lì, quindi sono abituati a rapportarsi, a ragionare proprio, oltre che rapportarsi in quel modo lì. Quindi la domanda che, adesso siamo alla fine, però per le prossime volte che ci incontreremo, per le discussioni così, è quella di cui avevamo parlato anche in assemblea, la domanda delle domande è: la tecnologia è neutrale? La domanda è scontata, però la tecnologia è neutrale, cioè il problema è l'uso che se ne fa o la tecnologia di per sé, e quindi andando a monte chi la sviluppa, chi la diffonde e l'uso che subdolamente spinge ad usarla? Questa è una domanda che poi magari è un discorso molto molto ampio, però magari ci sarà modo nelle prossime volte di sviscerarlo, insomma. L'ultimo intervento, mi sbaglio? Ci sta Giambattolo, lui, e poi chiudiamo. Okay. Potete passare il microfono, per favore. Io volevo fare un intervento breve, molto omeopatico, anche pesantemente inadeguato. E ci tengo a farlo in questa assemblea no Green Pass antifascista, dove posso parlare con degli antifascisti che lo sono stati bene o male sino in fondo. Perché essere antifascisti non basta, per essere antifascisti dire che Mussolini era un pezzo di merda o il quadrumvirato erano quattro sfigati. Questo è l'antifascismo dei salotti letterari, che va bene da sul divano rosso della Serena Dandini, va bene da Fabio Fazio. Quello è l'antifascismo così, della pericena, no? quello sono buoni tutti. Allora, io credo la cosa che più mi ha sconvolto negli ultimi 3 anni non è tanto il livello politico epico, questo, cioè noi siamo persone che, bene o male, per non... hanno perso tutto, no? Amicizie, riferimenti politici, se mai ce ne sono stati, ma la cosa che più mi ha sconvolto è stata l'invadenza della gente. Le persone sono diventate un dito nello sfenoide in questi anni di pandemia, perché permettersi di dire qualunque cosa succeda, non mi interessa che ci sia la pandemia, fosse pure le 13 piaghe bibliche che tu ti devi comportare in un modo per il quale si voglia motivo, è una cosa che non si può sentire, che è oltre il fascismo. Allora io vi voglio dire una cosa, voi amici, amiche, dobbiamo fare una cosa, io direi in controtendenza, non dobbiamo combattere, basta, noi abbiamo già dato, sono gli altri che devono fare il posto nostro, perché quando queste persone qua si renderanno conto che gli hanno schiaffato chi una, due, tre, quattro dosi di eutanasia, devono prendere la roncola e andare loro sotto il palazzo, noi dobbiamo prenderci le ferie, perché noi abbiamo perso tutto, tutto, e meritiamo che ci portino la colazione a letto. Gli altri si devono svegliare, gli altri devono ammettere a loro stessi, perché le cose, quei bastardi del potere, ce le dicevano sin dall'inizio, punto e basta, non ci hanno mai negato nulla. Devono ammettere che sono stati nei nostri confronti stronzi e coglioni, non necessariamente in questo ordine di addendi. Ho finito, grazie. Fascisti. Ah, i nazisti direi pure. Non tutti, per fortuna. Non parlo di chi aveva la pistola puntata alla tempia, parlo di chi ha blastato la gente, di chi è diventato invadente. No, no, che litigare, ho fatto un intervento pesantemente inadeguato proprio per risollevare gli animi. Che cosa ti vuoi offrire? Io mi baso sulle mie ricerche personali su alcune di queste tematiche che mi avevano interessato particolarmente. Intanto, per quanto riguarda il rapporto, la situazione con la Russia, no? Io ho saputo che già forse verso l'inverno dell'anno scorso o quello prima la Russia è entrata in mobilitazione parziale, quindi visto che la Costituzione italiana, per quanto possa essere bella rispetto a quello che di fatto viene poi portato avanti dalle leggi che ci hanno portato senza dubbio a essere ormai disillusi, mi auguro, perché avere fiducia in certe cose ci porta soltanto una certa anche insofferenza, che forse però è anche positiva, perché ci ha portato qualcosa, ha portato a unirci piuttosto che a rimanere fermi. Importante anche un po' il movimento nella vita. Penso che bisognerebbe preoccuparsi di cosa fare se l'Italia o qualunque altro paese, per quanto l'Italia sia un paese sostanzialmente in cui i giovani non costituiscono neanche un terzo della popolazione, e comunque la possibilità che si entri in una mobilitazione è consistente, sempre che non arrivino delle bombe atomiche prima, però insomma, consapevoli di questo, quindi insomma, vivere combattendo va bene, però combattendo con serenità. C'è da pensare a quello che si può fare internamente e quello che si può fare esternamente, come avete detto tutti, ovviamente. Intanto, la tecnologia è forse l'unico metodo che si ha per intrattenere rapporti internazionali e forse anche nazionali, visto che i mezzi per muoversi, per spostarsi, sono sempre più limitati, sempre più controllati. Forse i mezzi con cui ci spostiamo sono più controllati dei siti online, quindi onestamente io penso che come una pistola da sola non uccida nessuno, la tecnologia da sola può fare, però fino a un certo punto, dipende come viene sviluppata. Certo è che stanno spuntando delle intelligenze artificiali, per chi non lo sapesse, che sono in grado di modificare il loro atteggiamento in base alle esperienze e le conoscenze che ricevono da vari interlocutori. Quindi insomma, potrebbero effettivamente diventare un problema quasi, diciamo, quando parliamo di fantascienza forse ci stiamo avvicinando, però comunque ancora non ci siamo arrivati, quindi fin tanto che non ci arriviamo, come una pistola non uccide nessuno da sola, la tecnologia nemmeno. Quindi qualcuno o di questa generazione o di quella dopo, con o senza scuse, dovrà imparare qualcosa se vuole provare a trovare nuovi metodi di lotta, perché senza la tecnologia, visto che i mezzi con cui ci spostiamo sono sempre più controllati, è palese che ormai l'Italia, come forse tutta l'Unione Europea, sta seguendo un modello molto simile a quello cinese. Su questo, anche se non c'è stato questo paragone in questa circostanza, non è uscito fuori, comunque penso che sia noto a tutti. E quindi che si può fare? Quello che si può fare è vedere di chi si parla, o comunque di chi parla di se stesso e come parla di se stesso e come ne parlano gli altri, valutare questo, e in seguito, quando c'è come singoli o anche come comunità con obiettivi comuni o come individui con obiettivi comuni, si ha in mente di provare a comunicare con queste persone, allora penso che man mano una rete si formerà, però servono dei siti che si sa che non sono così controllati come altri. Quindi o si deve arrivare a un punto in cui si riesce ad autogestire dei siti online, se qualcuno ne è in grado o sei disposto a impararlo. Io non ne sono in grado, però ci sono cose che non ero in grado di fare, le ho imparate. Chiunque di voi, chiunque di noi ha imparato delle cose, penso, crescendo nella vita, con l'esperienza, la conoscenza. Il problema non è la mancanza di conoscenza, quella si acquisisce. Gli esseri umani hanno sempre fatto. Quindi, certo, mantenere viva non solo la forza di volontà, però anche la fantasia, ecco, quella di cui qualcuno qui ha parlato, non è semplice. Quindi per quello ci toccherà leggere. I vecchi metodi in quel caso penso funzionino ancora. E per il resto, che dire, un'ultima cosa aggiungo, per chi non lo sapesse, in merito a Macron, com'è passata questa proposta sulle pensioni? C'è un comma all'interno della loro Costituzione che permette in situazioni eccezionali di far sì che l'esecutivo scavalchi il Parlamento. Quindi nulla di straordinario, ragazzi, è tutto nelle leggi. Questo è il classico funzionamento di uno Stato, non è che hanno fatto qualcosa di non democratico, questa è la democrazia occidentale. Poi, cioè, se avete qualche problema con la democrazia occidentale, allora siete anarchici, è quello il problema. Va bene. Io è chiusa, diciamo questo qua era l'ultimo intervento di questa lunga giornata pomeriggio di discussione. Diciamo che possiamo avere una serie di, diciamo, di indicazioni, intanto di appuntamenti per chi li vuole attraversare, che sono quello del 1° maggio di Pesaro. Ci saranno sicuramente a breve, credo, altri momenti di discussione che all'interno anche su Dal Nord i compagni di Busto Stizio, che non potevano essere presenti qui oggi, lanceranno, in realtà hanno già lanciato e la renderanno pubblica a breve, questa 3 giorni di discussione appunto sulla tecnologia, il ruolo della tecnologia all'interno delle emergenze della guerra. Credo che appunto mantenendo un po' il discorso che si era fatto fino adesso, diciamo, dove dobbiamo secondo me trovare a un certo punto che cosa è la consistenza, ma la consistenza diciamo contro le logiche, diciamo, coercitive dello Stato, dell'adeguamento alle idee, insomma, un po' anche per dare una breve chiusura rispetto a quello che dicevi anche te. Riconducibile alle condotte sarebbe piuttosto che cercare esattamente cose che siano nuove, come, no, il nuovo, nuove forme esattamente di protesta, ma trovarne una consistenza rispetto a questo. E per chiudere, diciamo, questo incontro, credo che ci si rivedrà, diciamo, nelle strade e nelle piazze, diciamo, che ci saranno nel prossimo periodo. Adesso ci sarà un aperitivo e Caterpillar e Gianbartolo faranno una serie di interventi qui, e andrà ringraziando noi che siamo stati qui fino adesso. Bene, grazie a tutti e a tutte.